Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, Luca Tremolada, Cristina Tagliabue, che proviene da un mal di testa feroce, diciamo sì, privacy. Sì. Esatto, qui la privacy. È comunque andata. Adesso sono in salute, qualche brufolo in più, ma in salute. Perfetto, meno male che radio, però non è vero. Sono le 16.07, Nova Lab 24. Oggi parliamo di tante cose. Diciamo, il minimo comune è il fatto che ci sono moltissime signore, moltissime donne. Io sono un resto ancora l'unico uomo, ma non alla fine della trasmissione, perché Luca Dello Iacovo si collegherà con noi per, insomma, fare un po' il punto su quello che sta succedendo ad Haiti, raccontarci come ancora una volta i social media stanno raccontando la catastrofe, e anche ci racconterà quello che sta succedendo in Cina tra Google e il governo. Insomma, avete letto sui giornali, sembra un braccio di ferro, ma non lo è, ci sono degli aggiornamenti. Noi ne abbiamo parlato nel corso della settimana, di filtri, di censura, in un certo qual modo abbiamo anche anticipato un po' questo tema, come abbiamo anche anticipato il tema degli editori e il tema della qualità, vero Cristina? Beh, certo, come dire, in realtà è una settimana, no, che il Sole 24 Ore ha aperto questo dibattito che mi sembra molto importante, aperto ovviamente dal direttore. Sì, domenica Gianni Riotta, esatto. Verità, insomma, ci sta domandando la qualità su internet, una promessa mancata per alcuni, oppure una logica conseguenza di quelle che sono poi le leggi fondamentali di internet. Quello che è certo è che insomma internet è un po' il territorio di tutti. Tutti hanno voce, gli ultras, coloro che insomma stanno sulla rete solo per insultare o per abbassare, diciamo, la qualità di una conversazione, che è un bene, questo su questo siamo tutti d'accordo. Dall'altro lato, insomma, è posto fortemente in discussione il ruolo dell'editore, l'editore sia nel campo del discografico che nel campo dei libri, l'editore come figura che in un certo qual modo seleziona, è il garante della qualità. Ma sì, si sono spese le migliori firme in questa settimana su Sole 24 Ore all'interno di questo dibattito, quindi certamente personalmente non mi sento di poter aggiungere niente. Quello che mi sento di dire è, osservando, come dire, il mondo della creatività e della cultura, è che insomma sia le case discografiche ovviamente vivono un momento di grande crisi, e MySpace ovviamente si è, come dire, è diventato veramente un posto di grande riferimento per tutti coloro che fanno... Anche se è un po' sgonfiato, cioè MySpace è partito con grandissime attese, poi a un certo punto è arrivata un'altra cosa che si chiama Facebook, loro si sono un po' sconfiati, però restano, ed è vero questo, il luogo degli artisti, il luogo dei musicisti, il luogo dei musicisti, dove insomma chiunque può, non dire inventarsi una carriera, ma può iniziare a pubblicare i propri dischi. Prima questo non avveniva, prima bisognava convincere l'editore, come per un giovane scrittore bisogna ancora oggi, se si vuole essere stampati, convincere un editore. Noi qui di editori ne abbiamo uno. Sì, un'editrice forse, visto che, come dire, puntate al femminile, come dire, internet, non so se è donna oppure no, però di fronte a me comunque abbiamo sicuramente uno dei personaggi più importanti dell'editoria italiana. Si chiama Fiorenza Mursia, e quindi, come dire, un cognome detto tutto. Con lei abbiamo anche, come dire, l'occasione di parlare di tante cose, sia perché comunque è una casa editrice molto molto vivace e piena di iniziative. Io poi li seguo molto, insomma, mi piacciono proprio le cose che fanno, sia perché, come dire, non soltanto a livello editoriale ma a livello di distribuzione hanno un approccio innovativo, decisamente innovativo. Vediamo di raccontare a tutti gli ascoltatori che non conoscono chi è Fiorenza Mursia, chi è Fiorenza Mursia. E poi lo facciamo subito. Fiorenza Mursia, nata il 18 febbraio 1952, sposata, ha una figlia, Huguette. Entra giovanissima nella casa editrice fondata dal padre, Ugo, prima nel settore commerciale, poi, dal 1990, ne assume la presidenza. È stata membro del consiglio d'amministrazione della RAI, membro della giunta e del direttivo di Assolombarda, fino al 1998, e del consiglio d'amministrazione dell'Università Statale di Milano. È stata anche membro del consiglio direttivo dell'AIE. Da editore ha mantenuto l'indipendenza della sua casa editrice, l'unica oltre ai grandi gruppi oggi dotata di una propria rete di distribuzione. 3.800 titoli in catalogo, 80 collane. Cintura nera di karate, quarto dan, esperta di arti marziali, vegetariana, animalista convinta. 30 cani, cavalli, asini e gatti che vivono nella sua casa di campagna. Personalità fuori dagli schemi, niente vita mondana, non ha un cellulare, non ama il computer. Un battitore libero della cultura italiana. Allora, quarto dan non è vero. Non è vero, sono secondo dan. Qui mettiamo subito diciamo i punti. Io dico quasi sempre la verità, sono allora, secondo dan. Ah, già stiamo aumentando le cose. Adesso rivediamo tutta... No, scheda. No, dai, la mia povera scheda. è vero. Comunque, al di là dei dami, insomma, io ho messo davanti, appena si è seduta dottoressa Fiorenza Mursia, qui con noi l'articolo di Jonathan Galassi del Sole 24 Ore di oggi, Il futuro dei media, cari amici, l'editore non abita la rete, che è insomma una difesa vivace, struggente, appassionata insomma del ruolo dell'editore, ed è una difesa che capita in un momento storico in cui vuoi l'ebook, vuoi l'e-reader, cioè il libro elettronico in qualche modo non sta soffiando via l'antico ruolo dell'editore tradizionale, però da un certo punto apre il mercato perché insomma più persone avranno possibilità di scrivere. Da un altro punto di vista apre una discussione, cioè le parole elettroniche, io preferisco scrivere sull'ebook anche perché vengo distribuito attraverso internet, mi basta avere un computer e posso diventare editore, non ho più bisogno di mandare il mio manoscritto a un editore. E apre ancora una volta un altro tema di discussione su un concetto che ormai è vetusto ma è sempre nuovo per noi, che è quello della coda lunga. Che cos'è la coda lunga? Internet, come sappiamo, è una grandissima libreria, può essere concepita come una grandissima libreria dove, a differenza delle librerie normali, non ha problemi di spazio. Oggi, se io sono un super appassionato di judo, visto che lei è di karate, faccio un po' fatica a trovare i miei libri in una libreria tradizionale perché in vetrina metteranno sempre i best sellers. Su internet riesco a trovare tutti i miei contenuti di nicchia sul judo, sul mio sport preferito, perché è organizzata in maniera diversa. La coda lunga perché su questi contenuti di nicchia di fatto si possono costruire, si stanno costruendo nuove figure professionali, nuovi editori. Questo è un po' il quadro enorme. Adesso vediamo un po' di Cristina di partire, di spezzettarlo e di vederlo con Mursia. Come la coda dell'alcertola, no? Esatto, la tagliamo track. E vediamo. Allora, innanzitutto cosa pensa insomma di come sta cambiando il suo ruolo come editore oggi? Tutto considerato, io credo che il mio ruolo non stia cambiando moltissimo, perché la casa editrice Mursia ha, come diceva correttamente la scheda, in catalogo 3.800 titoli. Quindi salvaguardare quella che lei chiama la nicchia è stato per me un obiettivo da sempre e continua ad esserlo. Nel nostro catalogo, e non casualmente, esistono tantissimi titoli. Ahimè, non sono tutti best seller, questo lo dico ahimè, però sono tutti long seller. Una delle caratteristiche vincenti della nostra casa editrice è stata proprio quello di avere mantenuto tutti quei libri che hanno un reale valore, quindi pubblicato innanzitutto e poi mantenuto in vita. Tutto questo ha un costo, perché effettivamente nelle librerie lo spazio è molto limitato e quindi lo spazio di un catalogo è molto limitato. Proprio per questo io ho voluto, in controtendenza decisamente, mantenere una distribuzione diretta della casa editrice, proprio per salvare, con costi più elevati, perché ha dei costi sicuramente più elevati, salvare anche quella parte di catalogo che continua ad essere vivo e vitale, ma che secondo i nuovi criteri di rotazione, di economicità, diventa pesante da gestire. Sicuramente internet risolve una parte di questi problemi di spazio, per l'appunto, e quindi anche di fruibilità da parte del cliente. Il lettore fino a questo momento non è un lettore che legge facilmente da internet. Ecco, però insomma entriamo un po' nel vivo. Insomma, lei ci crede alla possibilità, certo, di leggere farà dei libri, cioè costruirà dei libri ad hoc per Kindle, per questi, ricordiamo, no, agli ascoltatori. No, attenzione, io credo molto a internet e noi abbiamo in elaborazione un grosso progetto legato a internet. Ma così come, lo so che sono una specie di animale strano, ma è una delle mie forse caratteristiche, così come nel mondo della distribuzione ho scelto anni fa di mantenere una rete diretta distributiva con criteri di antieconomicità. Cioè, diretta, e questo spieghiamo agli ascoltatori, diretta significa che non si trova dappertutto. Cioè No, diretta distributiva vuol dire che Mursia ha i contatti con tutte le librerie italiane e si distribuisce, ha un magazzino, vende, distribuisce, chiama i trasportatori, cosa che fanno in questo momento altre 3-4 case editrici, o più che case editrici, 4 distributori. Quindi noi siamo gli unici editori italiani ad aver mantenuto dei magazzinieri che ricevono gli ordini, una rete di promozione che va nelle librerie, che cerca... fa promozione dei libri, evadiamo gli ordini direttamente ad ogni singola libreria. Ecco, però in questo senso internet che cosa? No, per lo stesso motivo le stavo spiegando che il nostro progetto, che in questo momento non è ancora pronto e quindi non è pubblicabile su internet, è un ampio progetto di internet, perché io ci credo moltissimo, ma io utilizzerò la mia rete distributiva di internet, quindi i miei libri saranno su internet solo ed esclusivamente passando da Mursia e non in questo senso, dicevo, non altri negozi, intendevo negozi elettronici, negozi elettronici, esatto, cioè, lei in un certo senso che cosa ci sta dicendo? Io però insomma voglio restare padrone dei miei autori e di quello che scrivono, in questo senso non cederò il mio autore, il mio libro così a Apple piuttosto che ad Amazon piuttosto che ad altri distributori, esatto, perché insomma voglio centralizzare sulla mia persona, no, non proprio sulla mia persona però sì, centralizzare un progetto che noi un progetto editoriale, la casa editrice ha costruito un grosso progetto che intende continuare, mantenere e gestire nei prossimi anni. Inoltre, per quello che riguarda internet, io vedo un grosso sviluppo, un grosso utilizzo dei libri su internet. Mi spiego meglio. Più che la lettura, l'ebook è poi uno sviluppo successivo, ma più che la lettura del libro, io vedo l'utilizzo del libro, quindi ci sarà una grossa ricerca, una grossa lettura delle pagine dei libri costruiti in maniera diversa, cioè non il libro dalla prima pagina all'ultima, perché per il momento ritengo ancora più comodo leggerlo sulla carta, ma l'utilizzo, quindi lo sfruttamento, mi serve realizzare una ricerca su quell'argomento dal catalogo Mursia, su 3.800 titoli io posso riunire, stampare e prima leggere su video, se voglio stampare 400 pagine, 200 certo, pagine che provengono da un progetto editoriale costruito in 55 anni di lavoro. E questo è molto utile anche per gli studenti, per coloro che vogliono fare delle ricerche. Io tra l'altro ero sul treno l'altro giorno, ho ascoltato una studentessa che cercando su internet ha preso delle frasi qua e là in libri che trovava e l'ha portato, come dire, questa ricerca che era composta per gran parte in realtà da cose già scritte al suo professore. Il suo professore ha messo un programma software dentro il computer che ha riconosciuto quali fossero le parti dei libri copiate da internet, della ricerca copiata da internet, superava il 60% questa percentuale di copio da internet, il professore l'ha rimandata a casa e lei quindi era molto scocciata e raccontava all'amica: cavoli, mi ha beccato il professore, no? Perché in effetti ormai con tutta la documentazione che c'è su internet da una parte serve, dall'altra l'elaborazione intellettuale della persona in realtà diventa, come dire, un passaggio in più quasi. Questo tra l'altro è un temone, anche perché qualcuno aveva scritto che si è un po' industrializzato il secchione, cioè nel senso che prima c'erano solo pochi che copiavano dal secchione di turno, adesso con internet il secchione è distribuito, è partecipato, è a disposizione di tutti, per cui tutti copiano. Però posso solo tornare un secondo, poi torno con Cristina. Lei è un po' il Murdoch italiano da un certo punto di vista, nel senso che come Murdoch ha detto: io i miei contenuti non li do a Google, non li voglio dare ai motori di ricerca, non li voglio dare, anzi se li vogliono pagano. E insomma, come la critica che io rivolgo a Murdoch è la critica che rivolgo a lei, cioè nel senso questo restare un po' chiusi rispetto a quelle sono le possibilità di distribuzione della rete la mette in una posizione di debolezza, nel senso che oggi molti ragazzi giovani, non più giovani, guardano iTunes, guardano a determinati, o ad Amazon, guardano a determinate librerie virtuali per la scelta dei loro titoli, non per una questione di qualità, ma perché è più facile trovare, perché è più facile trovare le loro informazioni. Tirarsi fuori da questo gioco è rischioso, è come dire a Google: io non voglio più giocare con te, per cui non voglio più comparire nel tuo motore di ricerca. Accidenti, oggi se non sei dentro a Google, non dico che non esisti, però manca poco, eh. Allora, io credo di aver costruito un catalogo che ha nel panorama editoriale una sua importanza, non voglio esagerare né in più né in meno, ma una sua importanza. Io credo che Google non possa fare a meno di inserire Mursia, questo senza dare nessun, non mi voglio vantare, sia ben chiaro. Però Mursia è una realtà, più che Mursia, i libri che abbiamo pubblicato, evidentemente Mursia non c'entra niente, ma il catalogo, diciamo meglio, il catalogo di Mursia è una realtà. E quindi è Google che non può fare a meno di Mursia, nel mio piccolissimo, sto parlando naturalmente di una virgola, perché la forza di Google è proprio di riunire tutto, nel tutto ci sono anch'io, ma la mia unicità sarà gestita da Mursia. Sarà disponibile e fruibile, ma passando attraverso Mursia, così come i libri di Mursia si comprano da Mursia, stranamente, non sì. Si trovano dai distributori. Sei convinta, Cristina? Ma insomma, passando dalle autostrade di Google, come dire, alle strade reali, alle città reali, già Mursia, come dire, in questi giorni ha inaugurato un'iniziativa alquanto unica nel suo genere, il cui nome è Baloo. Un omaggio a Kipling. In realtà, come dire, si tratta di un grandissimo enorme tir che attraverserà tante città italiane, oltre 2000 chilometri. E che cosa contiene questo tir? Contiene dei libri. Quindi sarà una libreria, il contrario, esattamente il contrario della libreria virtuale. No? Anche noi andiamo in rete, ma sulla rete autostradale in questo caso. Io intanto ricordo 824 0024, insomma, abbiamo qui un editore che sicuramente ha una posizione molto netta e molto definita nei confronti di internet, e quindi che ha anche un'idea abbastanza chiara sul fronte della qualità. Adesso voglio chiedergli due cose, perché chiaramente io sto dall'altra parte, è evidente. E 349 238 6666 per gli sms. Ma perché sto dall'altra parte? Semplicemente perché da un lato il ruolo di chi seleziona la qualità è centrale, ma è talmente centrale che secondo me non si può sottrarre a giocare nello stesso campo della rete. Questo è il mio pensiero. Provo ad arrivare alla domanda. Oggi, con internet, con voi editori che continuate a fare il vostro giusto lavoro di selezione, insomma, e anche dall'articolo che è stato pubblicato oggi sul Sole si legge proprio anche l'amore per la cultura e anche per l'autore. Insomma, l'editore non è solo la persona che stampa, ma è anche la persona che coltiva in un certo senso l'autore. Però io mi domando, oggi come fate a selezionare, oggi con la rete, con internet, con i nuovi autori, come si fa a selezionare lo scrittore? Cioè, come si può pensare ancora di stare chiuso nel proprio ufficio ad aspettare il manoscritto, o aspettare l'amico che ti porta il manoscritto, una cerchia magari di letterati assolutamente autoreferenziati che poi si muova e insomma si leggono anche tra di loro, perché diciamolo, poi c'è anche tutto un mondo di autori in Italia, ma anche fuori, che è assolutamente chiuso. Beh, qua entriamo, diciamoci poi la verità, proprio andiamo. Oh no, è facilissimo. Innanzitutto io ho, e credo molti altri editori come me, la difficoltà di selezionare, di scegliere, perché già l'offerta che ci arriva è così ampia che la difficoltà di scegliere è molto spesso gravosa. Ma non è tanto andare a cercare l'autore o selezionare. Allora, diciamo che nella testa di un editore, parliamo di un editore vecchio stampo, io tale mi definisco, quindi voglio. Allora, nella testa di un editore esiste un progetto che è il catalogo, e questo progetto va completato con una serie di tasselli. Allora, io so, nel momento in cui prendo una proposta in mano, se questo libro fa parte del mio progetto editoriale o non fa parte. Che stia parlando di narrativa, di saggistica, di un manuale di vela, di un libro di scacchi o di un testo di... No, testi di filosofia li vado a cercare io, li seleziono in un'altra maniera, questo è un altro discorso. Però diciamo di autori contemporanei e nuovi autori vengono selezionati perché sto cercando in questo momento, io mi sto muovendo su alcuni campi, alcuni settori, e quindi faccio scouting su quei settori e ricerco autori. Non ho difficoltà, devo dire la verità, in questo campo non ho nessuna difficoltà. Noi leggiamo tutte le proposte che ci arrivano, tutte. Quando dico tutte vuol dire tutte. Non le leggiamo tutte dalla prima all'ultima, sia ben chiaro, ma le leggiamo tutte e a tutti diamo la possibilità di entrare o comunque di essere valutati, ecco, diciamo così. Comunque, dottoressa, la mia impressione, ma proprio da una persona come me che ha scritto con un altro editore che è Bompiani, è che in realtà il mondo di internet intellettualmente ancora non abbia alcun influsso sulle vendite, no? In realtà reali nel mondo reale, nel senso che sono molto importanti gli articoli sul Sole 24 Ore, le recensioni, eccetera eccetera. Su internet può scattare un grandissimo tam tam, ma poi tutto sommato... Nova Lab 24. Eccoci, Luca Tremolada, sono le 16.32, Nova Lab 24, siamo in compagnia di Cristina Tagliabue e di Fiorenza Musia, un editore all'antica. Io mi sto un po' scaldando perché chiaramente non vediamo il mondo alla stessa maniera, ma è giusto anche così. Ma è relativo, se lei vedesse sia che cosa sta facendo la casa editrice, qual è il progetto su internet, questo all'antica... Ma su forse... Kindle ci va? Sì, ci andiamo. Con il rischio poi pirati... Ci andiamo con molta calma, e con molta prudenza. Comunque no? Io ho letto un libro su Kindle, cioè insomma dai, diciamoci la verità, per carità, è chiaro, però insomma non voglio fare la solita, la carta, la vecchia carta, però insomma è abbastanza così freddo, no? È uno strumento davvero un po' igienico quasi. Ma poi provate a pensare che se uno vuole pubblicare un libro non è così difficile, perché con la stampa digitale chiunque può pubblicare il suo libro, non è quello. Evviva, però diciamolo, evviva. Oh, ma benissimo, ma io ad esempio ho ripreso alcuni libri che erano stati pubblicati diciamo da privati perché effettivamente avevano una validità e così via, come da internet abbiamo recuperato ad esempio un nostro successo che è Apocalisse Bianca. È un libro, è un romanzo di meteorologia che è nato su internet proprio perché da MeteoLive c'erano una serie di racconti che noi abbiamo ricostruito come romanzo, è diventato un romanzo che ha avuto un notevole successo. Cioè, questi fenomeni... Sì, poi passo indietro. Io non è che penso che tutto ciò che andrà su Kindle o sui lettori, gli ebook, è oro. Anzi, no. Cioè, quelli sono strumenti, dal punto di vista sono contenitori, esattamente come internet, è semplicemente uno strumento di distribuzione dei contenuti. Le idee si affermeranno, e questa non è retorica, secondo si affermeranno solito. Sulla carta, si affermeranno su internet, si affermeranno sul libro elettronico. Questo... La potenza dell'idea è superiore a qualunque formato. Stava a sandire. Sì, tra l'altro la domanda che stavo facendo alla dottoressa Mursia era proprio questa, cioè la potenza dell'idea in realtà su internet oggi non mi sembrava così forte come ancora potenza su carta in realtà, quindi sì, strumento di distribuzione internet, però tutto sommato... Internet è in crescita, dicevo, del 22% in questo momento. Le vendite dei libri su internet sono in crescita del 22% rispetto all'anno scorso. Questo però è un problema distributivo, ovvero i libri non si trovano, o perlomeno i criteri di omologazione distributiva del libro sono tali che si trova dappertutto lo stesso libro. Ma il libro che tu cerchi o che vorresti cercare non lo puoi trovare dappertutto. Tutto. Ecco perché noi li carichiamo su Passepartout, sul nostro tir, e partiamo per i centri inferiori ai 30-50 mila abitanti, proprio perché là le librerie hanno maggiori difficoltà. È un problema collegato. Ecco, e come dire, passiamo da una casa editrice guidata da una donna e fatta peraltro da tantissime, tutte donne mi dicono. Praticamente. Esatto, a come dire, un'altra donna che guida invece una grande agenzia di comunicazione, Rosanna D'Antona, benvenuta tra noi. Buongiorno, di cui possiamo partire ad ascoltare la biografia se vogliamo. Ogni tuo desiderio. Rosanna D'Antona fonda nel marzo 2003 D'Antona & Partners, una struttura di strategia di comunicazione per l'impresa rivolta ad aziende di respiro nazionale e internazionale. È stata presidente e CEO di Edelman Europe. Prima di ricoprire questo ruolo, è stata per 8 anni general manager di Edelman Milano. È vicepresidente e nel board di Assorel, associazione delle agenzie di relazioni pubbliche. È nel board di Pubblicità Progresso e honorary member di PWA Milano, oltre che docente alla Business School del Sole 24 Ore. A livello personale è molto attiva nell'ambito della Woman Leadership, è membro dell'Osservatorio sulla Diversity della SDA Bocconi, è stata responsabile Lombardia della Fondazione Marisa Bellisario per 5 anni. Nel 2009 ha contribuito al lancio del progetto Valore D con McKinsey e Ready for Board Woman con PWA. I media richiedono spesso il suo parere sull'evoluzione della comunicazione e sul ruolo femminile nel nostro paese e pubblicano regolarmente i suoi articoli. Rosanna D'Antona è sposata, ha 2 figlie, Francesca e Anna, e 2 nipoti, Ettore ed Elio. Insomma, sappiamo tutto. Sì, ormai, esatto, ormai non c'è niente da aggiungere. Muore il mistero con queste schede, cioè nel senso uno esce fuori e dice vabbè, che ci esatto, diciamo? Che altro dobbiamo aggiungere? Posso dire una cosa? È che devono essere tutte ipertitolate, no? Alla certo. Fine tutte queste uomini che... cioè uomini. Uomini, donne che ti portano. Allora, io volevo però... ho un sms che volevo leggere, volevo che lo commentasse proprio Rosanna D'Antona. Igienico, fantastico, piccolo, leggero, comodo, salva gli alberi, la schiena degli studenti, gli allergici alla polvere. Cioè è poetico, volendo, esatto. È un sms mandato da un nostro ascoltatore, chiaramente certo. Per insomma definire quello che è il Kindle o esatto. Il lettore. Certo, ma io ho ascoltato con molto interesse tutta questa discussione, in effetti credo come al solito che poi insomma la verità stia un po' a metà, no? Da una parte c'è un grande mezzo di diffusione che è Internet, del quale sicuramente oggi non possiamo fare a meno, e dall'altra c'è, come avete giustamente detto voi, la forza delle idee, quindi credo che alla fine l'individuo, l'uomo, la donna, visto che rappresentiamo questo universo, è sicuramente diciamo quello che fa la discriminante. D'altro canto bisogna dire che la velocità, la comodità, eccetera, ormai senza Google, visto che si parla di Google, non si vive più. Io ogni tanto penso di come facevamo prima, quando per preparare un paper, per preparare una discussione, eccetera, dovevamo tirare giù dei libri, cercare magari l'amico che ti diceva ma guarda che ho sentito, ho letto, obbligato, qui basta digitare quello che vuoi, lo digiti in modo trasversale 2 o 3 volte e ottieni immediatamente quello che vuoi. Quindi io credo che questo sia, io direi anche fortunatamente, ineluttabile, nel senso che è forse anche più pulito, più igienico e sicuramente si abbattono meno alberi su questo. Dopodiché devo dire che il momento in cui hai bisogno, voglia di riflettere con maggiore calma, eccetera, forse la vecchia carta è più calda di quanto non può essere un ebook sicuramente. Eh sì, tra l'altro, come dire, Rosanna D'Antona oggi è con noi in realtà perché io avevo una domanda, cioè mi stavo domandando circa la nascita di tante associazioni, tanti comitati al femminile, no? Qui alla fine a Nuova 24 Lab parliamo tanto, no? Di donne, e vedo che sempre più donne si stanno riunendo per cercare di fare le cose. Rosanna ha avuto un ruolo importante nella creazione di, non so come chiamarlo, spiega tu, Valore sì. D. Valore D. Allora, Valore D è direi il penultimo nato, visto che è nato recentissimamente Pari e Dispari, di cui la stampa ha già parlato, ma anche di Valore D. Allora, la differenza di Valore D è che è una aggregazione non di persone ma di aziende, nel senso che evidentemente alcune aziende, devo dire quasi tutte internazionali, si sono rese conto che anche attraverso studi, ricerche eccetera, che per esempio il profitto di un'azienda guidata da una donna e qui siamo due rappresentanti imprenditrici ovviamente di misure diverse, perché la Mursia ha dimensioni sicuramente maggiori della mia società, però il rendimento, il famoso ROI di aziende guidate da donne è maggiore del 20% rispetto a quello. Dopodiché siamo in poche oggettivamente, e quindi le aziende, queste prime 10-11 aziende che sono McKinsey, che sono Unilever, che sono Banca Intesa, Unicredit eccetera, si sono rese conto del valore di avere una donna all'interno in posizione apicale e hanno deciso di aggregarsi. Quindi è la prima associazione di imprese, chiamiamole tra virgolette di gender friendly, mi veniva da dire di buona volontà, ma direi gender friendly, quindi aziende che ritengono che il capitale umano femminile sia un talento, sia un tesoro da non disperdere. E quindi si sono messe insieme per fare scambio di conoscenza, scambio di esperienza e portare sul tavolo comune quelle che sono le esperienze migliori, quelle che vengono chiamate le best practice di un'azienda piuttosto che un'altra, con l'intento non solo di rimanere in 11, tant'è che a distanza di un anno sono diventate già 31. Noi siamo uno dei soci aggregati a questo tipo di sviluppo iniziale. E quindi qua abbiamo da aziende di largo consumo a aziende di servizi, eccetera, con l'intento di fare role playing, quindi di valorizzare le figure positive che all'interno delle imprese hanno dato un contributo significativo, di fare networking e quindi di mantenere un collegamento diretto e virtuoso, se volete, tra un'azienda e l'altra, tra una persona e l'altra, e di fare training e di fare scambio di conoscenze. Quindi questo è un po' atipica come associazione, perché poi dopo all'interno dell'universo delle associazioni femminili ci sono mille altre associazioni. Le più importanti, tanto per citarne una, la citavi tu prima, è la PWA, la Professional Women Association, di cui sono membro onorario e che ha pubblicato recentemente un dossier sulle prime circa 100 donne. Il titolo del dossier provocatorio è Ready for Board Women, quindi donne pronte per entrare nei board. Ma non esistono poi degli obiettivi specifici che in qualche modo, non dico obblighino, sì, no, ma portino tutte queste aziende che partecipano, diciamo, all'associazione a valorizzare, certo, no, le donne, cioè nel senso proprio in termini pratici, cioè certo, a farne entrare di più, a metterne di più tra le dirigenti, a un certo punto cosa fate? Allora, qui ci sono anche dei criteri di misurazione, per cui per esempio all'interno delle associate di Valore D ci sono dei benchmark per andare a vedere. Queste sono già aziende che hanno per esempio ai loro vertici un numero maggiore di donne rispetto alle aziende non associate, però c'è anche la capacità di misurare quelle che nel corso del tempo sono i numeri aggregati. Per esempio, mi viene in mente una cosa, il benchmarking è molto importante. La Barclays Bank, per esempio, nel suo sito, dentro alla divisione Corporate Social Responsibility, si dà un suo benchmark che dice: noi abbiamo il 10% delle donne in posizioni apicali oggi, vogliamo avere, ma questo l'ha detto anche Profumo in uno degli articoli recentemente apparsi anche su Sole 24 Ore, dove ha dichiarato che nel 2010, mi pare, scusate, nel 2015 vorrà, 2010 è già questo, no, nel 2015 vorrà incrementare il numero di donne all'interno del gruppo del 20%. Quindi voglio dire, se andiamo con questo criterio, se vuoi anche virtuoso, no, un'azienda che guarda l'altra, l'idea è di stimolare maggiore partecipazione, come ci sono delle leggi in corso, non sono ancora delle leggi, sono dei decreti di legge, sono delle proposte di legge per fare in modo che il numero di donne ai vertici sia incrementato. Nova Lab 24. Rieccoci, Luca Tremolada, sono le 16.46. Noi abbiamo in linea Valeria Manieri, stiamo un po' discutendo di associazioni, di quello che succede all'estero in Italia. Lei è di Pari o Dispari? Sentiamo la scheda. Valeria Manieri nasce a Roma il 10 aprile 1984. Lavora con Emma Bonino, con cui ha pubblicato il libro Pensionata sarà lei. Fa la radicale, che già di per sé occuperebbe tutto il tempo. collabora con Dillinger Radio e si impegna per creare un network al femminile in Italia. Ha collaborato con il quotidiano Italia Oggi e con il Ministero Politiche Europee su Donne, Occupazione e Crescita. È membro di Giunta Nazionale e membro della Direzione di Radicali Italiani. Collabora con CERM, Competitività e Regolazione Mercati. È attiva, testarda, ma piena di garbo. Ha partecipato attivamente alla fondazione del Comitato Pari o Dispare per le pari opportunità di lavoro e di carriera e contro gli stereotipi diffusi dai media. Ama la musica, la politica, i viaggi, l'amore, le persone, i bei film, le serate con gli amici, Caciaroni e un po' Brilli, le serate solitarie sul divano davanti a un DVD. Instancabile lavoratrice, è convinta che tra uomini e donne l'importante è pareggiare. Ma quindi ho sbagliato, era pari o dispare? Pari o dispare, esatto. Perché non sono abbastanza raffinato, ma può spiegare? Siamo stati sofisticati anche nel titolo. Qual è il fuoco che muove questa associazione? Beh, sicuramente il merito, la parola merito, la parola pari opportunità, intesa però come un nuovo slancio, con un nuovo impegno e soprattutto quello che ci caratterizza un po' è la composizione variegata di questo comitato pari o dispare, fatto di tante donne e di diverse estrazioni, di associazioni al femminile, mi viene in mente Corrente Rosa, AFI, Casa Internazionale delle Donne, ma anche associazioni come quella delle donne di Banca d'Italia, veramente moltissime ci hanno risposto in queste ore e soprattutto dopo l'evento dell'11 gennaio che ha visto la presentazione di questo comitato che, ricordo, è presieduto dalla nostra presidente Fiorella Costoris, economista di lungo corso, e dalla, come presidente onoraria, dalla vicepresidente del Senato Emma Bonino. Bocca al lupo! Si può dire? Crepi il lupo. Allora, lupo. Noi abbiamo un convitato di pietra che è un maschio, non c'entra assolutamente nulla, è Luca Dello Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Rieccoci, allora insomma cerchiamo di torniamo sulla cruda cronaca elettronica, insomma ieri, oggi avete letto sui giornali, insomma il braccio di ferro Google e Cina, cosa sta accadendo in questo momento? Ci spieghi anche un po', insomma, che cosa c'è di vero? Sì, allora l'ultima notizia è che il portavoce del ministro degli esteri Zhang Yu ha annunciato che in Cina le aziende straniere sono le benvenute e a patto che agiscano in accordo alla legge. Ma qual è la questione che è stata posta sul tavolo? È che Google ieri ha annunciato che probabilmente avrebbe lasciato il mercato cinese. Questa è un po' stata la provocazione di Google. Di fatto poi adesso è il momento anche delle interpretazioni, perché da un lato è stato detto, se Google si è messo in questa maniera è perché evidentemente in Cina c'è chi è disposto a raccogliere questa sfida. Sì, anche perché appunto è una situazione complessa dove la maggior parte del mercato è nelle mani di Baidu, che è un motore di ricerca locale, parliamo del 64% del mercato, Google è il 30% del mercato. Sì, tra l'altro dopo la notizia di questo braccio di ferro, Baidu è schizzato in borsa e Google ha perso punti, tanto per capire quanto ormai le questioni della finanza e le questioni della comunicazione di una grande multinazionale come Google e di uno Stato siano strettamente correlate. E anche perché è una mossa a sorpresa, ricollegandoci al discorso che avete fatto durante la trasmissione sugli editori. Google aveva da poco fatto le scuse agli scrittori cinesi perché aveva preso dei libri che erano stati pubblicati su Google Books senza il loro consenso e le scuse sono di una settimana fa. Adesso arriva invece questa scelta di Google di non censurare più, di fatto il motore di ricerca e già i blogger in Cina denunciano il fatto che Google non è accessibile in alcuni punti della nazione, quindi già i blogger su Twitter stanno dicendo che google.cn non può essere raggiunto. Ecco Luca, noi ci risentiremo insomma lunedì, ci anticipi un po', lunedì tra l'altro ricordo alle 16.30, ci anticipi un po' il tema della puntata? Sì, alle 16.30 di lunedì ci occuperemo di sapere, ecco, di capire come è possibile sapere chi ha scritto una voce di Wikipedia. Sì, insomma andremo a capire anche un po' quello che è l'interesse oggi delle aziende verso Wikipedia, il marketing, insomma andiamo a sviluppare questo che è un pezzo della rete fondamentale. Grazie Luca Dello Iacono, grazie per grazie questa comparsata voi. Telefonica. Ciao. Saluto anche da parte mia Luca Dello Iacono. Io insomma così riprendo invece questo tema, no? Che ormai, come dire, ti affligge Luca, no? Nel senso che la presenza delle donne nel mondo del lavoro, nel mondo delle aziende e il fatto di tante donne che si rimettono insieme. Così leggo nel comunicato stampa che era arrivato alla presentazione di Pari o Dispari, peraltro tutti i siti internet ne hanno parlato negli scorsi giorni, anche Job24, no, ho letto, c'era proprio un'intervista a Fiorella Costa Stories. In Italia lavora meno di una donna su due. No, allora così, guardando nelle palle degli occhi Rosanna D'Antona, come dire, mi domando, ma lo sapeva lei? Sì, certo. Allora ci riesce a dare una risposta di 15 secondi. Allora, il Trattato di Lisbona dà una occupazione al 60% femminile. Fatto 100 la popolazione, ogni paese dovrebbe occupare il 60% delle donne. Noi in Italia siamo al 47% di media, con una forte disparità tra nord e sud. Siamo al 67% al nord e al 33% al sud. Non sta a noi prendere insomma, commentare, i dati, i numeri dicono tutti, me la sono cavata così. Grazie Cristina Tagliabue, grazie Fiorenza Mursia, ringrazio Rosanna D'Antona e Valeria Manieri. Ora linea alle news. I PC, dati per morti, sembrano invece fuori dalla crisi. Lo dicono le cifre di Gartner e IDC. I dati preliminari rilasciati dalle due società d'analisi di settore indicano che per la prima le consegne mondiali nel quarto trimestre 2009 hanno messo a segno un più 22,1% su base annua, ovvero la crescita più alta degli ultimi 7 anni. Per IDC, prendendo in esame lo stesso periodo, si rileva un aumento più contenuto ma positivo, pari a un più 15,2%. A trainare questa ripresa, i personal computer a basso costo, la sostituzione dei modelli desktop con i notebook e, in misura però parziale, l'arrivo di Windows 7, il nuovo sistema operativo di Microsoft. Il 5 marzo verrà lanciato il nuovo Nintendo DSi XL. La nuova console di casa Nintendo sarà dotata di schermo più largo e angolo visivo più ampio rispetto alle altre presenti sul mercato. La vera novità? Poter condividere il divertimento di gioco. In altre parole, il gioco online. Cambiamo argomento. Le donne che seguono una dieta sana, frutta, verdure e pochi grassi, rischiano meno ansia, depressione e disturbi di cuore. Lo dice una ricerca dell'Università di Melbourne, secondo cui i problemi mentali sono assai più frequenti nelle donne con una dieta ricca di cibi grassi o altamente raffinati. Una cattiva dieta avrebbe effetti negativi sul sistema immunitario e questo, attraverso un'infiammazione sistematica dell'organismo, porterebbe a scompensi psichici. Passiamo all'energia. È stato inaugurato a Mezzago, in provincia di Milano, il nuovo impianto fotovoltaico della Solar Day, che sosterrà oltre un terzo del fabbisogno energetico dello stabilimento, dove l'azienda italiana produce moduli fotovoltaici. La struttura sarà in grado di produrre energia pari a 243.861 kWh all'anno. L'impianto è collocato sul tetto dello stabilimento e occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Chiudiamo con il progetto DexSmart dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Si tratta di un robot per gli anziani e i disabili in grado di compiere con facilità azioni della vita di tutti i giorni e afferrare oggetti grazie a mani prensili e all'intelligenza artificiale che li rende consapevoli dello spazio nel quale operano. I primi risultati sono già arrivati grazie al prototipo Justin, in grado di raccogliere oggetti con precisione e anche di preparare il tè. L'intenzione è quella di creare robot in grado di interagire con l'uomo e di assistere, oltre ad anziani e disabili, terapisti e chirurghi nelle loro attività.